mai apparsa persino ai miei. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens, 12ª puntata. Nel suo vestito da viaggio guarnito di pelliccia, Estella era di una bellezza più delicata di quanto fosse mai apparsa persino ai miei occhi. Anche i suoi modi con me furono più affascinanti di quanto ella si fosse curata di avere in passato, e credetti di ravvisare nel cambiamento l'influenza della signorina Havisham. Restammo nella locanda della posta mentre ella mi indicava il suo bagaglio, e quando fu tutto riunito mi venne in mente, nel frattempo avevo dimenticato tutto quanto non fosse lei stessa, che non sapevo nulla della sua destinazione. «Devo andare a Richmond», mi disse. «Le mie istruzioni sono queste. Ci sono due Richmond, uno nel Surrey e uno nello Yorkshire. E il mio è il Richmond del Surrey, distante 10 miglia. Ecco la mia borsa, con il denaro che contiene pagherai le mie spese. O devi prendere la borsa. Non abbiamo altra scelta, tu ed io, che obbedire alle nostre istruzioni. Non siamo liberi di fare dei piani nostri, tu ed io». Poiché mi guardò nel darmi la borsa, sperai che vi fosse un significato recondito nelle sue parole. Le pronunciò in tono impertinente, ma non malcontento. «Dovremo far venire una vettura, Estella. Vuoi riposarti un poco?» «Sì, mi riposerò un poco e berrò una tazza di tè. E intanto tu dovrai vegliare su di me». Passò il suo braccio sotto il mio come per un gesto che doveva essere fatto, ed io pregai un cameriere della locanda, che era rimasto a guardare la diligenza come se non ne avesse mai vista una in tutta la sua vita, di indicarci un salottino riservato. Alle mie parole egli tirò fuori un tovagliolo, quasi fosse un magico filo conduttore, senza il quale non gli sarebbe stato possibile di salire al piano superiore, e ci condusse in un buco oscuro, ammobiliato con uno specchio che rimpiccioliva, un oggetto veramente superfluo date le dimensioni del locale, una salsiera piena di salsa d'acciughe e un paio di zoccoli appartenenti a chissà chi. Alle mie proteste egli ci condusse in un altro locale, in cui troneggiava una tavola da pranzo sufficiente per 30 persone, e nel focolare di sotto il secchio della cenere sporgeva un foglio bruciacchiato di quaderno. Dopo aver gettato uno sguardo su quei residui d'un fuoco estinto e scrollato il capo, prese la mia ordinazione, e poiché questa si limitava a una tazza di tè per la signorina, se ne andò in uno stato d'animo assai depresso. Ero e sono consapevole che l'atmosfera di quella camera, che combinava intensi odori di stalla e di brodo d'ossa, poteva far pensare che l'azienda delle diligenze non andasse troppo bene e che il proprietario mettesse a bollire i cavalli a beneficio della sezione alimentare. Pure quella camera era tutto per me, perché Estella era lì. Con lei avrei potuto viverci felice per tutta la vita. Badate, non mi sentivo affatto felice in quel momento, e me ne rendevo ben conto. «Dove andrai a stare a Richmond?» domandai ad Estella. «Starò», disse, «e con forte spesa, da una signora che è in grado, almeno dice di esserlo, di portarmi in giro, farmi conoscere delle persone, mostrare loro a me e me a loro». «Immagino che sarai felice di tanta varietà e ammirazione». «Sì, immagino di sì». Aveva risposto con tanta indifferenza che esclamai: «Parli di te stessa come se parlassi di un'altra persona». «Che cosa ne sai di come parlo degli altri?» «Via, via», disse Estella con un delizioso sorriso. «Non devi pretendere che io venga a scuola da te. Devo parlare a modo mio. Hai fatto dei progressi col signor Pocket?» «Se non altro mi trovo molto bene». «Ebbi l'impressione di non saper approfittare di un'occasione favorevole. Se non altro», ripeté Estella, «per quanto mi è possibile star bene in qualsiasi posto, lontano da te». «Sciocco ragazzo», ribatté Estella calmissima, Come puoi dire simili stupidaggini? Il tuo amico, signor Matthew, se non sbaglio, è superiore al resto della sua famiglia, vero? Veramente superiore. Non è nemico di nessuno. Non aggiungere fuorché di se stesso, interruppe Estella. Perché io odio quel genere di perdizione. Ma ho sentito dire che è veramente disinteressato. È al di sopra di qualsiasi invidia meschina o malignità. Ho tutte le buone ragioni di dirlo anch'io, di certo. Non hai tutte le buone ragioni di dirlo anche dei suoi familiari, osservò Estella, inclinando il capo. Sul volto un'espressione insieme seria e beffarda. Poiché annoiano la signorina Havisham con racconti e insinuazioni a tuo danno, ti sorvegliano, ti dipingono sotto una luce falsa, scrivono lettere contro di te, certe volte anonime, e tu sei il tormento e l'occupazione della loro esistenza. Non riusciresti mai a immaginare quale odio questa gente nutre per te? Non mi faranno del male, spero. Invece di rispondere, Stella scoppiò a ridere, ciò che mi sembrò molto strano, tanto che la guardai assai perplesso. Quando smise, e non era stata una risata languida la sua, ma l'espressione di un vero godimento, dissi con la mia solita diffidenza nei suoi riguardi: spero bene che non ti divertirebbe se mi facessero del male. No, no, no, ne puoi essere sicuro, disse lei. Puoi essere sicuro che rido perché non riescono in nulla. Oh, quella gente, quante pene deve soffrire con la signorina Havisham. Rise di nuovo, e anche ora, dopo che me ne aveva detto la ragione, la sua risata mi sembrò molto strana. Non potevo dubitare della sua sincerità, eppure mi sembrava eccessiva per l'occasione. Pensai che celasse veramente più di quanto io sapessi. Ella lesse il pensiero nella mia mente e vi rispose. Non è facile neppure per te, disse Estella, sapere quale soddisfazione mi dà vedere quella gente ostacolata nei suoi desideri e quanto mi diverte il fatto che si renda ridicola. Perché tu non sei cresciuto fin da piccolo in quella strana casa, ma io sì. La tua mente infantile non è stata scalfita dai loro intrighi contro di te oppressa e indifesa, sotto la maschera della simpatia e della compassione, e di tutto ciò che ti può essere di dolce e confortante. La mia sì. Tu non hai aperto a poco i tuoi tondi occhi di bambino alla scoperta di una donna così falsa da calcolare le sue riserve di calma mentale per quando si sveglia la notte. Io sì. Ora Estella non rideva più. Né erano superficiali i ricordi che la rievocava. Non avrei voluto essere la cagione di quel suo sguardo, neppure a prezzo di tutte quante le mie speranze. Due cose posso dirti, continuò Estella. Anzitutto, nonostante il proverbio che l'acqua cheta rode i ponti, puoi stare tranquillo che questa gente non riuscirà mai, non riuscirebbe in 100 anni, a diminuirti nella stima della signorina Havisham. In qualsiasi cosa, grande o piccola che sia. In secondo luogo, io ti sono grata per essere la causa di tutti quei loro vani e meschini vanecci. E per questo ti do la mano. Me la diede scherzosamente. Il suo umore nero non era durato che un istante. Ed io la presi e la portai alle labbra. Ridicolo ragazzo, disse ancora. Non imparerai dunque mai. O mi baci la mano con lo stesso sentimento con cui una volta io ti lasciai baciare la mia guancia. Che sentimento era? Lasciamici pensare un po'. Un sentimento di disprezzo per gli adulatori e gli intriganti. Se ti dico di sì, potrò baciarti di nuovo la guancia. Avresti dovuto chiederlo prima di baciare la mano. Ma sì, se ti fa piacere. Mi chinai e il suo volto rimase impassibile come quello di una statua. Ora, disse Estella sfuggendomi non appena lei aveva sfiorato la guancia, occupati di farmi dare del tè e di condurmi a Richmond. Il tornare a questo tono, come se la nostra reciproca compagnia ci fosse imposta e noi non fossimo che semplici marionette, mi fece soffrire. Ma ogni cosa nei nostri rapporti mi faceva soffrire. Qualsiasi tono ella prendesse con me, non potevo fidarmene, né fondare su di esso alcuna speranza. Pure andavo avanti, contro ogni fiducia e contro ogni speranza. Perché ripeterlo migliaia di volte? Era sempre così. Pagato il conto e data la mancia al cameriere senza dimenticare lo stalliere e prendendo in debita considerazione la cameriera, in una parola dopo aver corrotto l'intero complesso del personale, mettendoli in uno stato d'animo di disprezzo e animosità ed avendo alleggerito di molto la borsa di Estella, salimmo sulla nostra carrozza d'apposta e filammo via. Svoltammo per Cheapside e percorsa rumorosamente la via della prigione di Newgate, ci trovammo ben presto sotto quelle mura, di cui mi vergognavo tanto. «Che cos'è quell'edificio?» mi domandò Estella. Dapprima scioccamente finsi di non riconoscerlo. Poi glielo dissi. E mentre ella lo guardava, ritraendo poi il capo e mormorando «Disgraziati!» non le avrei confessato la mia visita per nulla al mondo. «Il signor Jaggers», dissi per riversare tutto su un'altra persona, alla fama di essere addentro nei segreti di quel triste luogo più di ogni altro a Londra. Credo che sia il più addentro nei segreti di ogni luogo, mormorò Estella. Lo vedevi spesso, no? L'ho sempre visto a intervalli irregolari, ma non lo conosco adesso meglio di quanto lo conoscessi prima di aver imparato a parlare. Che cosa sai tu a suo riguardo? Hai fatto progressi nella sua intimità? Da quando mi sono abituato al suo modo di fare diffidente, dissi, mi trovo bene. Ne sei diventato intimo? Ho cenato con lui in casa sua. Immagino, disse Estella con una certa ripugnanza, che sia un posto strano. È un posto strano. Avrei dovuto evitare di parlare troppo liberamente del mio tutore, perfino con lei, e invece avrei continuato su quell'argomento se proprio allora non ci fossimo trovati all'improvviso nella piena luce di un lampione a gas. Finché durò, tutto mi sembrò infiammato e ravvivato da quella sensazione inesplicabile che avevo avuto prima. E quando l'avemmo sorpassato, rimasi per alcuni istanti abbagliato, come fossi stato investito da un lampo. Così, cambiato argomento, chiacchierammo soprattutto della strada che stavamo percorrendo e dei quartieri di Londra che si stendevano da quella parte. Estella mi disse che questa grande città le era quasi sconosciuta, poiché ella non s'era mai allontanata dal quartiere della signorina Havisham finché non era andata in Francia e s'era limitata ad attraversare Londra sia nell'andata che al ritorno. Le domandai se era stata affidata al mio tutore per la durata del suo soggiorno, al che ella rispose con enfasi «Dio non voglia!» senza aggiungere altro. Non potei fare a meno di notare che ella cercava di piacermi. Si mostrava accattivante. Voleva conquistarmi, anche se l'impresa avesse richiesto della fatica. Ma non è che ciò mi rendesse più felice. Anche se Estella non avesse assunto quel tono per far capire che dipendevamo completamente dalla volontà altrui, avrei sentito che ella si teneva il mio cuore fra le sue mani, perché così aveva deciso, e non perché fosse ispirata da nessuna tenerezza, ma per spezzarlo e sbarazzarsene. Quando attraversammo Hammersmith, le mostrai dove abitava Matthew Pocket. Le dissi che non era molto lontano da Richmond e che speravo di vederla qualche volta. Certo, dovrai venire a trovarmi quando ti sembrerà opportuno. Dovrai essere presentato alla mia ospite. Anzi, il tuo nome le è già stato fatto. Mi informai se la famiglia che l'avrebbe ospitata era numerosa. No, sono due persone sole, madre e figlia. La madre è una signora che ha una certa posizione sociale, sebbene non sia contraria ad aumentare la sua rendita. Mi meraviglio come la signorina Havisham abbia potuto separarsi di nuovo così presto da te. Fa parte dei suoi progetti a mio riguardo, Pip, rispose Stella con un sospiro come di stanchezza. Dovrò scriverle costantemente e vederla a intervalli regolari e riferirle quello che faccio, io e i gioielli, perché ora sono quasi tutti miei. Era la prima volta che mi chiamava per nome. Naturalmente lo fece apposta, ben sapendo che io l'avrei subito fatto tesoro. Arrivammo a Richmond fin troppo presto. La nostra meta era una casa accanto alla piazzetta comunale, una vecchia casa dignitosa, in cui crinoline e ciprie, ennai artificiali, giacche ricamate, calze arrotolate, merletti increspati, spade, dovevano aver avuto il loro periodo di splendore. Alcuni alberi antichi dinanzi alla casa erano ancora intagliati in forme altrettanto antiquate ed artificiali delle crinoline e delle parrucche e delle gonne inamidate. Ma non era molto lontano il tempo in cui essi sarebbero finiti nel posto loro riservato, nella grande parata dei morti, percorrendo la via silenziosa che mena all'eterno riposo. Una campanella dal suono antico, che a suo tempo forse aveva detto spesso alla casa: «Ecco la sottana verde a cerchi, ecco la spada dall'impugnatura di diamanti, ecco le scarpine con i tacchi rossi e il solitario azzurro», rintoccò gravemente nel chiaro di luna, e due camerierine dalle guance color ciliegia uscirono volteggiando incontro ad Estella. La soglia assorbì rapidamente i suoi bagagli. Ella vi concesse la sua mano e un sorriso. Mi diede la buonanotte e fu, a sua volta, assorbita. Io rimasi ancora a guardare la casa, pensando quanto sarei stato felice se avessi potuto viverci con lei, sentendo che non sarei mai stato felice con lei, ma sempre infelice. Risalii in vettura per essere ricondotto ad Hammersmith. Vi risalii con il cuore dolente e ne scesi con un cuore ancora più dolente. Alla porta di casa incontrai la piccola Jane Pocket, che rientrava da un ricevimento scortata dal suo piccolo adoratore, e invidiai il suo piccolo adoratore. Il signor Pocket era fuori a dar lezioni. Infatti era un abile insegnante di economia domestica, e i suoi testi sul come trattare bambini e servitori erano considerati i migliori su tali argomenti. Ma la signora Pocket era in casa e un poco in difficoltà, perché al bimbo, per tenerlo tranquillo, era stato dato un astuccio da aghi, e mancavano più aghi di quanto si potesse ritenere salutare per un paziente di età così tenera, sia che fossero applicati esternamente, sia che fossero presi per bocca a guisa di ricostituente. Il signor Pocket era giustamente rinomato per l'eccellenza dei suoi consigli pratici, per la sua percezione chiara e giusta delle cose e per il suo altissimo discernimento. Nella mia pena pensai quindi per un momento di fargli le mie confidenze, ma mi bastò gettare uno sguardo sulla signora Pocket, che seduta leggeva il suo libro sulle precedenze, dopo aver prescritto al bimbo del latte quale rimedio sovrano, per decidere che ebbene, no, non lo avrei fatto. Nell'abituarmi alle mie prospettive, insensibilmente avevo incominciato a notare il loro effetto su di me. e su quanti mi circondavano. Cercavo il più possibile di nascondermi la loro influenza sul mio carattere, pur sapendo benissimo che non era del tutto benefica. Vivevo in uno stato di inquietudine cronica, pensando al mio contegno verso Joe. Nella mia coscienza era del tutto tranquilla anche nei riguardi di Biddy. La notte, quando mi svegliavo, solevo riflettere con un senso di grande prostrazione che sarei stato più felice e migliore se non avessi mai visto il volto della signorina Havisham e mi fossi fatto uomo accontentandomi di aiutare Joe nella vecchia onesta fucina. Molte volte la sera, seduto a contemplare il fuoco, mi domandavo se, dopo tutto, vi poteva essere un fuoco che fosse pari a quello della fucina e della cucina di casa. Estella era tanto inseparabile da questa mia agitazione che finivo per domandarmi se non l'avessi provocata io stesso. Cioè, supponendo che non avessi avuto nessuna prospettiva e avessi continuato però a pensare ad Estella, non riuscivo a provare a me stesso in modo soddisfacente che mi sarei comportato in modo migliore. Invece, circa l'influenza della mia posizione su altri, tale difficoltà non esisteva e mi rendevo conto, sia pure piuttosto vagamente, che essa non era di beneficio per nessuno e soprattutto per Herbert. Le mie abitudini spenderecce spingevano la sua indole compiacente a spese che egli non poteva sostenere. Guastavano la semplicità della sua vita, turbavano la sua pace con ansie e rimpianti. Non provavo proprio nessun rimorso per avere involontariamente spinto quegli altri rami della famiglia Pocket a compiere delle meschinità, già che queste erano i loro naturali, e non fossi stato io, chiunque altro le avrebbe suscitate. Ma quanto a Herbert, la cosa era molto diversa, e spesso provavo un acuto rimorso al pensiero di avergli reso un cattivo servigio, riempiendo le sue camere scarsamente mobiliate di arredi incongruamente lussuosi e mettendo a sua disposizione il vendicatore dal panciotto color canarino. Pertanto, quale sistema infallibile per facilitare le cose, mi misi a contrarre un mucchio di debiti. E una volta che avevo incominciato io, come avrebbe potuto non incominciare anche Herbert? Egli ben presto seguì il mio esempio. Per suggerimento di un amico, chiedemmo di diventare membri di un circolo chiamato dei Fringuelli del Boschetto, di cui non riuscii mai a capire bene lo scopo, a meno che non fosse questo. I membri dovevano pranzare in modo dispendioso una volta ogni 15 giorni, litigare tra loro il più possibile dopo pranzo e divertirsi ad ubriacare almeno 6 camerieri. Certo è che questi nobili scopi venivano realizzati con molta regolarità e, secondo Herbert e me, a questi e a null'altro si riferì il primo brindisi della riunione, che fu del seguente tenore. Signori! Possa l'attuale predominio di buoni sentimenti regnare sempre incontrastato fra i Fringuelli del Boschetto. I membri del circolo spendevano stupidamente il loro denaro pranzando in un albergo a Covent Garden. E il primo Fringuello che mi capitò di vedere quando ebbi l'onore di diventare socio del Boschetto fu Bentley Drummle, il quale a quell'epoca girava per la città in una vettura di sua proprietà, provocando notevoli danni ai paracarri agli angoli delle strade ed ogni tanto veniva sbalzato fuori dal suo veicolo, testa in avanti, sull'incerata. E una volta lo vidi recapitarsi in questo modo involontario all'ingresso del boschetto come un sacco di carbone. Ma ora sto anticipando un poco sugli eventi, poiché non ero ancora un fringuello, né potevo esserlo, secondo i sacri regolamenti della società, finché non fossi maggiorenne. Fiducioso come ero nelle mie risorse personali, mi sarei assunto volentieri le spese di Herbert, ma egli era molto orgoglioso e non mi sentivo di fargli una simile proposta, cosicché egli si trovò in difficoltà da ogni parte, sempre continuando a guardarsi attorno. Quando a poco prendemmo l'abitudine di fare tardi in compagnia, notai che all'ora della colazione egli si guardava attorno con occhio abbattuto. Cominciava a guardarsi attorno un poco più fiducioso verso il mezzodì. Appariva depresso quando veniva a cena. Sembrava scoprire del capitale in lontananza, abbastanza distintamente, dopo cena. Quasi realizzava il detto capitale verso mezzanotte. E alle 2 del mattino era di nuovo così scoraggiato che parlava di comprarsi un fucile e andare in America al vago scopo di costringere i bufali a fare la sua fortuna. Di solito mi fermavo ad Hammersmith circa metà della settimana. e quando ero lì andavo continuamente a Richmond. Ma di questo dirò tra poco, a parte. Anche Herbert veniva spesso ad Hammersmith, quando vi ero io. E penso che in quelle occasioni suo padre avesse di tanto in tanto una fuggevole percezione che la strada che il figlio cercava non si fosse ancora aperta. Ma in quel generale ruzzolare della famiglia non era il caso di prendersela, se anche Herbert ruzzolava dal canto suo. Ad alta voce. Piero Baldini ha letto Grandi Speranze di Charles Dickens. 12ª puntata, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it.